intanto dopo che i migranti ieri notte hanno dormito all'aperto perché non volevano più ritornare dentro il centro, questa mattina a quanto pare c'è stata di nuovo un'agitazione da parte dei migranti, i lampedusani, molti lampedusani, non tutti ovviamente, ci sono stati scontri tra lampedusani e tunisini e tra forze dell'ordine e tunisini, perché ci sono questo gruppo di lampedusani che pensa che il problema siano i tunisini, e quindi dopo l'incendio con l'ausilio del sindaco che ha gettato benzina sul fuoco, appunto ora stiamo andando incontro a scontri, a violenze fisiche e verbali anche nei nostri confronti, ma soprattutto nei confronti dei tunisini. Chi vuole, diciamo, far uscire un'altra visione della cosa, come fu per l'arrivo dei Berlusconi, anche in questo momento viene minacciato sia verbalmente che fisicamente. C'è una buona maggioranza che appunto vede nello scontro con i tunisini e poi alla fine nell'assenza di un ragionamento, diciamo, reale di quello che sta accadendo, proprio levando ogni ragionamento di tipo politico, no? Perché poi alla fine il problema è di chi ha lasciato i tunisini tutto questo tempo a Lampedusa, di chi ha permesso che queste persone vivessero in una condizione squallida, misera, e che porta poi all'innervosimento, alla violenza, insomma, a perdere la lucidità. E in più i rimpatri in Tunisia hanno scatenato ancora di più questa rabbia. E c'è una buona parte, ora io non ti so quantificare quanti siano, ma una buona parte di lampedusani che è appunto in preda a questa follia, in preda a questa assenza di qualsiasi tipo di ragionamento, si scaglia contro i migranti, contro i tunisini in particolare, definendoli persone delinquenti che meritano di morire, e questa purtroppo è la dura realtà che noi stiamo vivendo già a Lampedusa. E in più un'assenza ancora una volta delle istituzioni, e un sindaco che è un responsabile, che fa dichiarazioni del tipo scenderemo in piazza con i manganelli, questa è una guerra, è la nostra guerra, i tunisini sono tutti delinquenti e noi li abbiamo aiutati, e loro ci rispondono così. In realtà anche questo va sottolineato, vorrei capire chi ha aiutato chi, perché nei mesi scorsi è vero c'è stata una grande solidarietà, ma chi oggi sta facendo quello che sta facendo? E quando c'era la grande solidarietà era sempre lì a dire che era un errore essere solidari. Quindi purtroppo sta vincendo la barbarie, ma in Italia, sta vincendo la barbarie in Italia. L'unica colpa che hanno i migranti tunisini in questi mesi è quello di essere usciti dal centro per farsi un bagno, per andare a mangiare una pizza. Poi c'è chi dice anche che siano stati degli episodi in cui i tunisini siano entrati in qualche casa, abbiano rubato non so da mangiare, ecco. Credo non ci siano alcun tipo di denuncia in caserma rispetto a questo, e non so se siano solo voci, è comunque anche possibile che sia successo. Però voglio dire, io credo sia normale che un uomo in carcere, che un uomo che non ha più la libertà, cerchi la sua libertà. In un paese normale chi commette il reato ha un processo, e poi se è colpevole va in galera. Ma questo è un pregiudizio che da anni la Lega coltiva in tutto il paese. Ecco, ci sono, mi accennavi prima, anche degli atteggiamenti ostili verso le associazioni, quindi anche verso di voi, ce lo puoi raccontare? Ma soprattutto verso di noi, perché comunque noi siamo lampedusani, mentre le altre associazioni umanitarie sono comunque persone che vengono da altre zone d'Italia e che magari non sono riconoscibili immediatamente come il figlio di o il nipote di. Siccome noi da sempre, dal 2009 ad oggi, abbiamo tenuto una linea che è coerente e che è stata sempre di solidarietà intanto verso i migranti e di una valutazione politica di quello che stava accadendo, E siccome invece questi stessi personaggi che stanno usando la violenza sono gli stessi personaggi che applaudivano Berlusconi quando è arrivato, allora noi diamo fastidio perché vorremmo riportare ad un ragionamento, diciamo, critico, intellettuale, politico, quello che sta accadendo, invece tutto si sta risolvendo in uno sfogo dei più bassi istinti umani. Ecco, come pensi che si potrà andare avanti nelle prossime ore? Che scenari si possono prospettare? Io non sono, in questo momento, forse il momento, ma non sono per niente ottimista. Io vedo buio, anche perché non si riesce a capire il governo cosa voglia fare di Lampedusa. Il problema è il governo, sono le scelte del governo che ha fatto su Lampedusa e che continua a fare, tant'è che ieri sera le dichiarazioni erano no, noi continueremo con i rimpatri, ma facendo anche capire che i rimpatri da Lampedusa, dunque non c'è nessuna volontà da parte del governo di portare la situazione, diciamo, ad una vivibilità, ad una normalità, tra virgolette, a Lampedusa. E poi vedo questo atteggiamento di una buona parte dei lampedusani che non va verso, appunto, una risoluzione dei problemi concreta, reale, ma va verso azioni che sono veramente di sconcertanti e purtroppo sono state anche alimentate, questa esasperazione è vera, è stata alimentata anche dalle scelte del governo, però io non riesco a giustificare quello che sta accadendo oggi a Lampedusa, io non riesco a giustificare la violenza, soprattutto contro chi viene da una situazione particolare come Tunisini, che se si vuole, diciamo, si è tentato in tutti i modi di criminalizzare Tunisini in questi mesi, definendoli come non richiedenti asilo, come migranti economici, come persone che scappano per venire in Italia solamente per fare dei danni, e quindi diciamo che questo tipo di propaganda poi ha avuto degli effetti, però non giustifico, ecco, io non giustifico chi si sta comportando in questa maniera e accuso il governo, accuso il governo italiano di quello che sta accadendo, la colpa è del governo italiano, di Maroni e di Berlusconi in prima persona.